por el suelo hay una compadrita. Solo un miracolo avrebbe evitato la vittima. Quando si sceglie l'opzione militare, blindando una città, quando si dispiega un apparato militare mai visto in Italia, quando si sparano candelotti alzo uomo sulla folla, quando si fanno caroselli con i blindati tra la gente, quando si carica a tradimento un corteo di 10.000 persone, quando si spara con armi da fuoco, quando ci si avventa sui pacifisti inermi e seduti per terra, solo un miracolo può evitare vittime. Ieri è stata una giornata gloriosa per l'Antiglobal, 50.000 pacifici, pieni di proposte e di alternatività, un successo che dava luce alla grande forza della protesta. Oggi il governo si è vendicato, riconquistando la dimensione militare per affogare quella etica e politica. Nella mattinata piccoli gruppi di casseur hanno seminato scompiglio in alcune vie del centro, vetrine, cassonetti, auto, i primi scontri. I 20.000 uomini in divisa, dislocati qui a Genova, avrebbero potuto facilmente circondarli e fermarli. Invece no. Per tutto il giorno poche decine di persone hanno fatto letteralmente il giro di tutti i presidi anti-global, inseguiti ma mai fermati dalle forze di polizia, che a ogni piazza avevano il pretesto per pestare i manifestanti che non c'entravano niente. L'unico corteo nel quale i casseur non sono riusciti a infiltrarsi, anzi sono stati fermamente respinti, è quello dei disobbedienti, le famose tute bianche. E allora ci hanno pensato i carabinieri. I disobbedienti sfilavano decisi e pacifici, attrezzati alla difesa e non all'offesa. Prima di Brignole il corteo è stato attaccato fulmineamente, senza preavviso, senza ragione, da un reparto di carabinieri. Poi gli scontri, e negli scontri la vittima. Por el suelo camina la raza, mamacita che va a matar. Por el suelo, vai la bellola. La notizia dell'omicidio del manifestante è arrivata poco prima delle 18, dalla questura di Genova il servizio di Angelo Miotto. C'è un morto, la voce corre veloce fra i manifestanti sui telefonini. No, ce ne sono due, si mormora sottovoce, mentre le manifestazioni finiscono, gli scontri proseguono. Il morto c'è, è un giovane fra i 20 e i 25 anni, forse spagnolo o forse basco. È steso sotto un lenzuolo bianco in piazza di Monda, poco distante da Brignole, il teatro dei tafferugli, degli scontri, delle devastazioni. Ma come è morto? Il portavoce del capo della polizia è laconico, conferma la morte, ha un buco in testa, dice, ma si affretta a spiegare che la dinamica non è chiara. Anzi, poi dice che forse è stata una pietra. C'è un fotografo francese che afferma di essere stato testimone a pochi metri dal giovane. Durante gli scontri, secondo il fotografo, un cellulare dei carabinieri si sarebbe trovato in difficoltà. Un agente avrebbe aperto il fuoco con una pistola o con un fucile per lacrimogeni a distanza ravvicinata. Un altro fotografo, rimasto anonimo, afferma che dopo essere stato colpito con una pistola, il giovane sarebbe stato travolto da un autoblindo. Chi ha soccorso il giovane dice che quella lesione in fronte non può essere il segno lasciato da una pietra. Il cadavere, steso per terra, è stato prima circondato dagli agenti con un fitto cordone di scudi all'esterno, poi, ore 19, trasportato via per l'autopsia, mentre i manifestanti, accorsi nella piazza, gridavano assassini agli agenti. Esperando la ultima ola, faccia mamma, me muero de pena.